Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Vorrei ricordare che nessuna donna abortisce per diletto e che da quando è in vigore la famosa legge 194, il numero degli aborti legali si è notevolmente ridimensionato, mentre quelli clandestini sono di fatto spariti. Che senso ha impedire un'operazione come la pillola del giorno dopo, che semplicemente impedisce l'impianto di un ovulo e che, se non utilizzata, porterebbe comunque ad un intervento invasivo quale l'aborto? Le gravidanze indesiderate possono avvenire per svariati motivi, non ultimo lo stupro. Da una parte si fa di tutto per impedire l'uso dei contraccettivi e dall'altra ci si strappa le vesti se una ragazzina resta incinta involontariamente e non se la sente di proseguire la gravidanza. È la solita storia della botte piena e della moglie ubriaca. Ma la questione di fondo è: perché ci deve sempre essere qualcuno a ficcare naso in faccende strettamente personali? L'obiettivo è forse uno stato confessionale. E allora che differenza ci sarebbe tra noi e i paesi come l'Iran? Il Corano anziché la Bibbia? Michele. Vivo in un paese dove il problema più grande è assumersi le responsabilità. Con la scusa di aver paura del sempre vivo fascismo, abbiamo fatto in modo che nessuno abbia responsabilità di nulla. I bambini sono il futuro dell'umanità. Non si può badare solo ai vecchi solo perché sono commercialmente appetibili. Una ragazza non può essere un'impunita. Se vuole fare sesso, deve conoscerne le conseguenze. È la stessa cosa che è capitata a mia madre e a me. Io sono il classico terzo figlio, diciamo quindi l'errore, non aspettato. Anche i miei avevano pensato all'epoca di abortire, però poi mi hanno donato la vita e non è successo nessun dramma. Voglio dire, le cose spesso sono peggiori quando si pensano, per poi diventare meno drammatiche e spesso meravigliose nel momento in cui si vivono. Io credo che tutto questo nasca dal momento che sono in pochi ad avere figli. È solo avendo i figli che nascono esigenze, ed è attraverso loro che si capiscono molte cose. C'è in giro un'ignoranza antropologica. L'uomo occidentale non conosce se stesso, le cose più naturali che ci appartengono, e questo perché non si hanno figli. Gli adulti hanno problemi diversi, sono già cresciuti, e pensano che ogni cosa sia di libero arbitrio. Ma i bambini hanno bisogno di certezze. Quando si cresce, si ha paura di tante cose. Ippolito. Da qualche giorno tutti i media del Regno Unito stanno parlando del comportamento scorretto, al confine dell'illegalità, di molti deputati e un paio di lord, per il cosiddetto scandalo rimborsi. David Cameron, leader dei conservatori e probabile prossimo primo ministro, ha imposto ai suoi ministri ombra di restituire tutto immediatamente o verranno cacciati dal partito. Tutte queste informazioni sono state diffuse per merito della stampa libera inglese. Ho seguito i nostri telegiornali e giornali radio, ma nessuno di loro ha riportato la notizia. La mia conclusione è che tutti i media italiani sono imbavagliati dalla politica, perché riportare una notizia del genere avrebbe imbarazzato la politica italiana, che è piena di privilegi ingiustificabili. Cosa fanno i nostri corrispondenti da Londra? Per fortuna c'è la BBC. L'ultimo servizio che ho visto al telegiornale parlava del trucco di Gordon Brown, erroneamente dimenticato su un taxi. Ranieri. Il mal di pancia viene a noi italiani, che sentiamo parlare di anti-italianità e di comunità tedesche che abitano in paesi che prendono fior fiore di soldi dagli italiani, con la scusa di essere comunità montane. Sarebbe ora che restituissero tutto, così l'anti-italianità passerebbe subito. Sauro. Gli immigrati piacciono ai ben pensanti. Chi non deve combatterci ogni giorno e parla dal salotto dei parioli non ha idea di quanto questo fenomeno abbia cambiato la vita sociale degli italiani. Il ben pensante, spesso di sinistra, che ha la seconda casa e paga l'asilo privato al figlio, cosa ne sa degli immigrati? Cosa ne sa degli spacciatori magrebini? Cosa ne sa delle prostitute albanesi? Io vivo a Siena da generazioni e mi sento tradito. Tradito dalla mia città. Tradito dalla mia nazione. In difficoltà economica, in mobilità per colpa della crisi, ho fatto domanda per le case popolari. Il mio reddito è di 13.800 euro all'anno, con moglie a carico. Niente casa popolare. L'immigrato che è qui da 2 anni ha più bisogno di me. Vogliamo parlare dell'asilo per i figli? No, lascia perdere. Riccardo, Siena. Nell'ultimo secolo L'Italia si è trasformata da società agricola a società industriale e poi post-industriale. Il fabbisogno in termini di persone occupate è in continua diminuzione. Ora le fabbriche sono in Cina e in Italia rimangono gli uffici commerciali. Fare più figli oggi significa solo avere più disoccupati domani. Già oggi non si sa quale sarà il loro futuro. Fernando. Una domanda. Non sarà che abbiamo bisogno di immigrati per coprire i posti di lavoro non coperti dagli italiani solo perché abbiamo abbattuto lo stipendio dei dipendenti rispetto al costo della vita? Facendo due calcoli, il milione di lire che si guadagnava negli anni 90 corrisponde a 3.000-3.500 euro attuali. Ma chi li guadagna? Io ho lavorato anche in fabbrica con immigrati extracomunitari e non solo non avevano un'idea dei loro diritti, ma neanche dei loro doveri. La linea di comando era molto simile alla struttura tribale. Federico. Tre domande. 1. I clandestini pagano cifre esorbitanti alle organizzazioni criminali per poter entrare in Italia sulle carrette del mare o barconi. Perché con quelle cifre non entrano attraverso le vie ufficiali, aereo, nave, eccetera, come turisti? Oppure, perché non richiedono asilo politico alle nostre ambasciate? 2. Se io ho una badante clandestina, che ovviamente pago in nero senza garantirle le contribuzioni sociali, sono un evasore fiscale? In questo caso, sono perdonato? In nome della mia appartenenza ad uno Stato multietnico e favorevole alla massima integrazione razziale, magari mi premiano? 3. Perché non organizzate un sondaggio tra gli stranieri che lavorano regolarmente in Italia, pagano le tasse e sono ben integrati, per vedere cosa ne pensano loro sull'argomento oggi più importante che non fa dormire i maggiori politici italiani e che è oggi l'argomento più discusso sui mass media? Carlino da Verona. Si sentono tanti discorsi, si fanno tante tavole rotonde, si spende tanto tempo e denaro per cercare di risolvere il problema dell'immigrazione. Invece di perdere tempo e denaro, perché non copiamo quello che hanno fatto e fanno tuttora in Germania, dove io mi ero trasferito nel 1956 e dove ho vissuto per 10 anni? Sono partito col passaporto turistico in regola e avevo 2 mesi di tempo per sistemarmi. Sono andato all'anagrafe per stranieri, dove mi hanno consegnato 2 fogli da far compilare, uno al datore di lavoro che mi assumeva e l'altro al padrone di casa. Ho riportato i 2 fogli compilati all'ufficio stranieri e da quel momento ho avuto tutti gli stessi diritti e doveri di un tedesco, fatta eccezione per il diritto di cittadinanza e di elezione, che si possono ottenere soltanto dopo 8 anni di permanenza ininterrotta. Dopo 8 anni ho ottenuto anche il diritto di esercitare un'attività commerciale o industriale. Avevo tutte le patenti guida italiane, ma ho dovuto sostenere ugualmente l'esame di teoria per dimostrare di conoscere la lingua e le didascalie abbinate alla loro segnaletica. Qui in Italia si critica il fatto di far pagare il permesso di soggiorno. Ebbene, là a me è costato 3 mensilità di lavoro. Ho pagato anche per le visite mediche obbligatorie per poter essere assunto e risiedere. Tredicesima e TFR in Germania sono ancora facoltativi e da queste richieste sono iniziati gli scioperi. I primi ad essere contrari allo sciopero erano proprio i sindacati, che dovevano risarcire ai tesserati le ore perse e, in caso di cassa integrazione, dovevano colmare la differenza mancante per arrivare ad offrire ai tesserati uno stipendio normale. Mauro. Io sono favorevole all'immigrazione. Vivo a Milano in un quartiere ed un condominio pieno di immigrati. Quindi al diavolo le opinioni di chi dice che vivere in un quartiere popolare in compagnia di extracomunitari deve per forza essere intollerante. Qui a Milano, come in tante zone d'Italia, bisogna piangere per trovare un manovale o un muratore che lavori in casa, per non parlare della ricerca di una badante. Lavoro nel campo della componentistica elettronica. Subisco la concorrenza a distanza del lavoro a basso costo di Taiwan, Corea e Cina popolare. Perché non si deve accettare una sana concorrenza fra italiani e stranieri per mansioni da muratore, idraulico e domani anche legale o notaio? Marco. Non capisco una cosa. L'immagine dei barconi rispediti in Libia, per Franceschini, è campagna elettorale del centrodestra. E si indigna. Vero? Ma mi domando, le stesse immagini non sono forse campagne elettorali per il centro-sinistra? Naturalmente funzionando al contrario. E però Franceschini non si indigna. Ma Roberto. ascoltato un vostro commento sulla Fiera del Libro, nel quale mostravate di non apprezzare le nuove tecnologie. Posizione legittima, ma che non concordo. Fatta eccezione per le tirature di prestigio, i libri come vengono venduti ora farebbero inorridire i bibliofili di un secolo scorso. Probabilmente i libri che venivano venduti un secolo scorso avrebbero fatto inorridire quelli di due secoli prima. Via via fino agli amanuensi che inorridivano davanti alla stampa a caratteri mobili di Gutenberg. Bisogna capire se, per il pubblico, sia più importante comprare un libro per leggere e ampliare la propria mente oppure solo per allinearlo sulla libreria come un oggetto d'arredo. Luigi. Caro Luigi, Radio 24 è la radio ufficiale della Fiera del Libro di Torino ed è presente in forze con collegamenti e molte trasmissioni in diretta anche con la partecipazione dei visitatori del grande salone. Il libro, lei lo ricorda, ha una storia antica ma rimane un elemento centrale nella diffusione della conoscenza e della cultura. E non c'è nessuna opposizione tra i libri e le nuove tecnologie. Anzi, le strade della comunicazione possono esaltare ancora di più l'importanza e la funzione del vecchio e caro libro, che non deve avere, come giustamente osserva, solo la funzione di completare l'arredamento di casa, ma ogni libro deve servire ad essere testimone di umanità, un'umanità che può solo crescere attraverso il confronto di mille esperienze diverse. Aprire le pagine di un libro vuol dire aprire una finestra sul mondo, come navigare su internet, fare una telefonata, invitare a pranzo un amico. Tante opportunità che possono e devono costituire una traccia per la nostra vita quotidiana, con la capacità di poter scegliere tra migliaia di libri, milioni di siti internet e, speriamo, anche qualche centinaio di amici. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.